GR Europa. Da Bruxelles al Forum 2013 sulla competitività europea, l'appello del premier italiano uscente Mario Monti: ci deve essere una strategia di accompagnamento, non di accomodamento, ha detto Monti, che deve essere perseguita a livello europeo se non vogliamo permettere che, comprensibilmente, forze più semplicistiche, alcuni direbbero populistiche, tendano a far deragliare le politiche europee. L'inflazione nell'eurozona a gennaio 2013 è scesa al 2% contro il 2,2% del dicembre 2012. Il dato diffuso da Eurostat conferma la prima stima resa nota ad inizio mese. Raggiunta nella notte un'intesa preliminare fra Parlamento europeo e governi sulle nuove norme dei requisiti di capitale delle banche in applicazione di Basilea 3. L'accordo prevede anche di limitare i bonus dei manager. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore nel 2014, ma gli Stati membri devono dare il loro via libera. L'accordo, che include un limite alla remunerazione dei manager, segna la fine dell'epoca dei bonus insensati e ingiustificabili. È stato il commento del commissario europeo al mercato interno Michel Barnier. La parità di genere è uno dei valori fondanti dell'Unione Europea. Il lavoro compiuto ha prodotto risultati concreti, ma molto resta da fare, in particolare per eliminare le disparità nella retribuzione di uomini e donne evidenziate dalla Commissione Europea, che proprio per oggi ha indetto la giornata per la parità retributiva. Al Parlamento di Strasburgo si discute anche della possibilità di introdurre sanzioni più severe per le aziende che non rispettano il principio di equità retributiva fra i sessi, perché soprattutto merito, si fa per dire, della crisi economica, la riduzione del gap fra gli stipendi fra uomini e donne, spiega Francesca Bettio, coordinatrice del network di esperti per l'uguaglianza di genere della Commissione. Ascoltiamola al microfono di Laura Bettini. La diminuzione del salario in una crisi tipicamente procede tagliando, diciamo, quelli che vengono considerati bonus, la parte variabile del salario, se vuole, che è molto più frequente per gli uomini. Quello che è importante è che comunque il divario permane. Le donne in media continuano a livello europeo a guadagnare circa il 16% di meno su base oraria. Ora, molto spesso, o più spesso in questa crisi, si sono viste di fatto attribuire un compito di capo famiglia e chiaramente conta quanto prendono in assoluto e se prendono in assoluto meno dei maschi. Se lei prende la quota delle famiglie con due redditi, questa quota è diminuita di circa il 5%, diciamo dal 2007 al 2010, negli anni più bui. Questa diminuzione è stata quasi interamente compensata da un aumento delle donne capofamiglia. In questo contesto l'Italia registra fra le minori disparità salariali in Europa, anche se in aumento dal 4 al 5%, un dato che la Bettio spiega come risultato dell'aggravarsi della crisi, ma anche come vizio dello strumento statistico utilizzato. La ricerca esclude le imprese con meno di 10 addetti ed è noto che in Italia significa escludere una fetta consistente del mondo produttivo. Annunciato dalla Commissione europea uno stanziamento di 144 milioni di euro per finanziare 26 progetti di ricerca sulle malattie rare. I progetti aiuteranno a migliorare la vita di circa 30 milioni di europei, in gran parte bambini, che soffrono appunto di queste malattie. Un saluto da Maria Piera Ceci. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.